Piazza 24, i gialli della storia. 19 giugno 1951. Una delle tappe più importanti nella ricostruzione della nostra marina mercantile. Varo della turbonave Andrea Doria. Assieme alla gemella Cristoforo Colombo, è la più grande e veloce della marina italiana di linea. E raccoglie tutti i perfezionamenti e le innovazioni della moderna tecnica navale. 22 dicembre 1952. Prima crociera sulla rotta di New York. Benvenuti, dicono i newyorkesi e gli italoamericani al capitano Calamai. 26 luglio 1956. Gli orologi segnano le 11 di notte, 4:20 ora italiana. Un tremendo urto. Le luci si spengono. La musica da ballo cessa di colpo. Urlano nel buio le sirene. Il piroscafo svedese Stoccolma ha schiantato la sua poderosa prua in acciaio contro il fianco dell'Andrea Doria. In 9 ore, quasi 2000 persone vengono salvate dalle numerose navi accorse sul luogo. Sono le 15. Una vedetta costiera trasmette. Sta affondando rapidamente, abbandonata dal capitano e da un gruppo di ufficiali anziani che hanno lottato sino all'ultimo per salvare la loro nave. Il 25 luglio del 56, le 23:20, ora di New York, le 4:20 della notte in Italia. Lo scontro tra l'Andrea Doria e la nave svedese Stockholm si trasforma nel più grande salvataggio in mare di tutti i tempi. 1.500 passeggeri e 500 membri dell'equipaggio portati in salvo, mentre l'Andrea Doria cola a picco di fronte alle cineprese di tutto il mondo. Ma quella nave è qualcosa di più che una semplice nave da crociera. Rappresenta la realizzazione di un sogno in un'Italia che sta cercando di riprendersi dopo la guerra, esportando la raffinatezza del suo design e l'efficienza delle proprie industrie. L'Andrea Doria e la sua gemella Cristoforo Colombo ne diventano un simbolo. La rotta è quella che porta da Genova a New York e la scelta è quella di non preoccuparsi della velocità, ma piuttosto del comfort. Quel viaggio deve essere un sogno da raccontare e tramandare. E con questo intento compie il suo primo viaggio nel 1953. Oggi a Mix 24 raccontiamo la storia dell'Andrea Doria e di quello straordinario salvataggio. E finalmente, nell'inverno del 1952, l'Italia di navigazione può presentare il suo gioiello, 29.083 tonnellate di stazza lorda, 214 metri di lunghezza, 27 di larghezza, motore a turbine per una potenza di 35.300 cavalli vapore, distribuiti su due eliche. La Doria offrirà ai 1.200 passeggeri aria condizionata, 3 piscine, 4 cinema, telefono in ogni cabina e perfino l'autorimessa. Farà la rotta di New York. Genovese varcherà l'oceano di Cristoforo Colombo. L'Andrea Doria non doveva essere la più veloce, la più grande o la più imponente, ma semplicemente la più bella nave sulla rotta più bella, la rotta del sole, dal Mediterraneo a New York in 8 giorni. Mentre le grandi compagnie europee ed americane promuovevano la velocità delle loro traversate atlantiche, 4 o 5 giorni seguendo le agitate rotte del nord per raggiungere gli Stati Uniti, le navi italiane promossero la bellezza, l'arte, tutto quello che allora era nostra prerogativa. L'Italia poteva ancora essere dipinta come il giardino d'Europa, la fucina del bello, e Genova andava orgogliosa dei suoi gioielli. Le caratteristiche del transatlantico, che vanno dalle piscine alle sale cinematografiche ai maestosi saloni per le feste, si manifestano soprattutto nella straordinaria ricerca dei particolari. L'Andrea Doria è la cattedrale della bellezza e del lusso, oltre a essere un esempio di efficienza e di ricerca tecnologica che la fanno definire particolarmente sicura e praticamente inaffondabile. I viaggi dell'Andrea Doria sono da subito un successo, al punto che raccolgono prenotazioni con largo anticipo, tanto da registrare spesso il tutto esaurito. D'altronde i ponti della nave sono un'occasione per incontri straordinari. Tra i passeggeri della nave italiana figurano Orson Welles, Cary Grant e il generale Marshall, che approfittano degli 8 giorni di traversata per concedersi un momento di tranquillità. Ma nella nave c'è anche una terza classe che trasporta una nuova generazione di migranti alla volta degli Stati Uniti, anche se questa volta in una condizione più confortevole e lontana naturalmente dagli sfarzi della prima classe. Attraverso la rotta del sole, facendo bagno dal mattino alla sera, passando da un divertimento all'altro, roba da vergognarsi persino. La traversata era ormai divenuta confortevole per tutte le classi. Alla piscina di prima classe, con tanto di passerelle in mogano, si era aggiunta quella in classe cabina e addirittura quella in classe turistica, la vecchia terza classe, laggiù in poppa. Ma le distinzioni, naturalmente, erano rimaste. I passeggeri di turistica non potevano frequentare la prima classe. C'è qualcuno che lo faceva abusivamente, ma veniva subito individuato e veniva pregato di ritornare negli spazi della propria classe. La nave era tutta di lusso, molto ballare, molto mangiare, bere, e tutta festa per 8 giorni. Andavo in giro a spiare le altre piscine, i cinema. Era come essere in un'avventura, perché c'erano così tanti posti interessanti sulla nave. Era un viaggio divertente. Certi giochi che ci avevano che non avevo mai visto da bambino, perché non avevo mai visto, certi sport che facevano. Il 25 luglio del 56 il viaggio è quasi terminato, ma è il giorno della collisione. E allora si fa strada l'incertezza e anche il momento della paura, dell'ansia e della confusione. Non posso fare a meno di ricordare il mattino del 25 luglio. Un mattino splendido, un oceano straordinariamente calmo, un cielo straordinariamente azzurro. L'Andrea Doria si stava avvicinando all'isola di Nantucket, a 40 miglia dalla costa americana di fronte a Boston, dove una nave faro avverte della presenza di secche e indirizza le navi in direzione di New York. Da New York era intanto partito un transatlantico svedese, lo Stockholm, con a bordo 534 passeggeri. Il comandante Gunnar Nordenson, lasciata la baia di New York, cede il timone al terzo ufficiale, Johan Carstens Johansson, 26 anni, per la prima volta al comando in plancia con 2 marinai, anch'essi alle prime armi. Nel pomeriggio la nebbia arrivò, una nebbia fitta, pesante, tutti i sistemi di sicurezza vennero attivati, porte stagne chiuse, e soprattutto i segnali acustici che sono di rigore durante i periodi di nebbia. Sono salita con l'abito da sera, mi sono seduta con i miei amici e aspettavamo che la festa incominciasse. Siamo passati al traverso del battello fanale, passati 1 miglio a sud, e abbiamo messo in rotta sul battello fanale di Ambrose. Una signora è venuta e ha detto: sai Rosa, c'è tanta nebbia fuori. Sono andata fuori dalla nave e non si vedeva quasi niente. Nel radar un segnale a 17 miglia di distanza, 4 gradi a dritta. Quella nave era lo Stockholm, la prua rinforzata come quella di un rompighiaccio. Sono andato a cena, era la notte prima di New York, ho scritto a casa, sono andato in cucetta. Ore 23.05, Carstens sta controllando la sua rotta quando il radar segnala una nave che secondo i suoi calcoli è distante 12 miglia. Abbiamo anche calcolato a che distanza sarebbe passata. Sarebbe passata circa 1.3 miglia di distanza sul lato destro dell'Andrea Doria. Ore 23.07. Il giovane ufficiale svedese controlla il radar. La nave sullo schermo è ora a 10 miglia e ritiene sia meglio accostare a destra per avere un passaggio a sinistra tra le due navi. Dopo qualche minuto sono andato sull'aletta di destra di comando per cercare, insieme al comandante Calamai, per cercare di vedere l'alone, il chiarore, o quantomeno di sentire il segnale dell'altra nave. Ore 23.08. Il radar della Stockholm segnala sempre la nave sulla destra. Però Carstens è stupito. Quel punto luminoso sembra molto veloce, troppo veloce. Non abbiamo sentito nessun segnale mentre l'Andrea Doria emetteva i propri segnali. Carstens ordina a questo punto un'accostata dritta al suo timoniere. È certo che l'altra nave passerà alla sua sinistra. E mi sono reso conto che stava accostando. L'ufficiale svedese cerca di vedere le luci dell'altra nave con il binocolo, ma non riesce ancora ad avvistarla. L'altra nave, improvvisamente, senza alcuna ragione apparente, ci stava mettendo la prua addosso. Non c'era altro mezzo che cercare di fuggire. Ore 23.10, Carstens si volta e chiama al telefono la vedetta per sapere se l'ha avvistata. Il comandante Calamai ha dato l'accostata tutta a sinistra, ma purtroppo ormai era troppo tardi. Alle 23.11.18, l'Andrea Doria appare improvvisamente di fronte a Carstens, che inutilmente dà il comando di indietro tutto. Io mi ricordo la figura del comandante Calamai scagliarsi contro le luci di questa nave che ci veniva incontro. Stockholm si spezzò la sua prua, la lasciò dentro al scafo dell'Andrea Doria e scivolò lungo il bordo fino a poco. SOS, collisione con un'altra nave. SOS, collisione con un'altra nave. Uscita la collisione con 19 gradi di sbandamento sulla destra. Era già uno sbandamento eccezionale, perché quando la nave è sbandata a 2 o 3 gradi è già in condizioni di difficoltà nel camminare. Avete bisogno di aiuto? Urge aiuto immediato. Nessuno sapeva cosa fosse successo e quando aprimmo la porta della cabina c'era solo fumo nei corridoi e mio padre disse: prendete le giacche di salvataggio, ce ne andiamo fuori. Gridavano, strillavano, uscivano dalle cabine, strillavano, svenivano. Era una cosa non bella da vedere. Stiamo arrivando. Arriveremo a ore 1.45. State affondando? Cosa vi occorre? Con altri colleghi sono state messe in moto tutte le pompe di emergenza per poter asciugare tutta l'acqua che entrava, però faccia conto che entrava una 10 tonnellate e ne buttavi via una. Seriamente danneggiati, tutta la prua schiacciata. Stiva si sta riempendo. Dobbiamo stare nella nostra posizione. Se potete calare le lance, vi possiamo raccogliere. Dovete remare sino a noi. Il mio incarico è finito subito, perché io ero addetto alla messa a mare delle lance sul lato sinistro, che non si sono potute ammainare perché eravamo sbandati 19 gradi sulla dritta. Troppo inclinati, impossibile mettere a mare le lance. Per favore, mandate soccorsi immediati. Mi sono levata il vestito perché le spalline erano cadute e tenevo half asleep. Ho preso mia figlia e siamo 40 minuti da arrivare sopra. Arrivati su posto, siamo tra le navi in collisione. Doria dice che servono lance di salvataggio per circa 1000 passeggeri e 500 membri equipaggio. Questa giovane, che tornava appunto negli Stati Uniti a Chicago, si attaccò a me, anche se la mia unica esperienza di marinaro era quella di andare per mare nelle acque delle Cinque Terre alla pesca con i tremagli. Il segnale di abbandono nave non fu mai dato. Il comandante Calamai molto probabilmente si rese conto che se avesse dato il segnale di abbandono nave avrebbe causato panico. Tante luci erano chiuse, non si vedeva. Dipende il corridoio. Dai corridoi non c'era luce, tanti corridoi c'erano luce. Abbiamo cercato anche di radizzare spostando dei pesi liquidi, però quella che entrava era molto lunga. Doria dice urgono lance di salvataggio per circa 1000 passeggeri e 500 membri equipaggio. Non si poteva stare su in piedi. Abbiamo dovuto portare olio dalla motrice al motore di emergenza di poppa con dei secchi, camminando lungo le paratie, con la schiena sulle paratie perché non riusciva a stare in piedi. Siamo riusciti a metterlo in moto e poi è rimasto acceso, è rimasto in moto. Infatti la nave è andata a fondo con le luci accese. Arriverò in un'ora, ho 4 scialuppe. Ho preso mia figlia e volevo andare alla prima classe perché c'era tutta l'azione, era la prima classe, tutte le luci. E quando sono andata ad aprire la porta era chiusa. Si passava davanti all'infermeria dove c'era il dottor Tortoli Donato. C'erano queste tre ragazze che non volevano uscire e la ragione per la quale non volevano uscire era che, a loro dire, erano prive di vestimenti. Siamo andati in macchina, abbiamo preso queste corde, abbiamo legato queste... erano tre ragazze, tre signore, tutte macchiate di acqua e nafta. Insomma, con le corde le abbiamo tirate su. Due lance in mare. Roger, avvisate le altre navi dei 1000 passeggeri. L'aspetto più tragicamente umano di quel naufragio fu l'attesa angosciante e spasmodica. Io non so quanto ci metta un aereo che esplode ad ammazzare i passeggeri che sono a bordo, ma 5 ore creano una situazione di impatto psicologico che praticamente non si dimentica. Si avvicinano le navi per i soccorsi. In questa operazione di salvataggio avrà un peso fondamentale l'Île de France, una nave che accorre sul posto in poche ore e che mette in salvo quasi la totalità dei passeggeri. The people on the Île de France were wonderful. La gente sull'Île de France era meravigliosa. Ci portarono vestiti, cibo. Ma mia madre era sempre preoccupata per nostro padre, che non sapevamo dove fosse. Guardavamo affondare l'Andrea Doria. Eravamo sul ponte, a sedere su una grande sedia, quando mio padre sbucò dall'angolo. Fu un momento speciale. And Dad just came out. L'Andrea Doria ha ora un'inclinazione a dritta di 45 gradi. Comandante e 11 dell'equipaggio, probabilmente ancora a bordo. Una volta che noi siamo scesi nella lancia di salvataggio, l'ultimo a scendere avrebbe dovuto essere il comandante Calamai, il quale ci disse: io resto a bordo, voi state qua nelle vicinanze, che nell'eventualità che arrivi, io aspetto che arrivino i rimorchiatori che stanno arrivando. A queste parole noi abbiamo reagito molto fermamente e abbiamo fatto atto di ritornare a bordo con lui. E questo l'ha indotto, una volta vista la nostra decisione, a scendere con noi. Andrea Doria sta affondando rapidamente. È come quando si vede morire un amico, giovane, bello, pulito. È stato molto triste. L'Andrea Doria affonda in fretta e il bilancio di quella tragedia si può misurare in 54 vittime. E quella nave, affondata a poche miglia dalla costa e appoggiata a 75 metri sotto il livello del mare, diventa un punto di riferimento. Intanto si organizzano escursioni, si collezionano oggetti, si raccolgono immagini particolari, anche perché si ritiene che il transatlantico contenga un grande tesoro nascosto nelle sue cassaforti. E nel 1981 una di queste viene aperta in una diretta televisiva internazionale. Ed è questo il momento in cui lo sportello della cassaforte che era stato sollevato è ricaduto pesantemente in acqua. La cassaforte dell'Andrea Doria viene aperta per la prima volta dopo l'affondamento. Ecco, avete visto salire in superficie tre pacchetti non identificati, potrebbero essere dei pacchi di banconote o contenitori di documenti. Sono stati raccolti delicatamente, vedete con quale delicatezza vengono posati su un contenitore di plastica, dove verranno immediatamente esaminati. Ecco le prime impressioni a caldo di Peter Gimbel. Dietro al circo e ai toni forzatamente entusiasmanti, una grande delusione. Il tesoro dell'Andrea Doria non esisteva, solo poche banconote e nient'altro. Ma perché? La vigilia dell'arrivo a New York, noi distribuivamo, ritornavamo ai passeggeri che avevano fatto il deposito i loro averi. Passeggero solo, non ricordo il nome, non l'ha voluto ritirare, ha piantato una grana e ha detto: no signore, io ho la cassetta di sicurezza e io le mie averi li ritirerò soltanto quando la nave è in porto, prima non le voglio avere. Ma di quella collisione che ha portato all'affondamento dell'Andrea Doria, di chi è la responsabilità? Si possono identificare dei colpevoli? A nostro giudizio, a giudizio cioè del gruppo di lavoro, non esistono vere e proprie responsabilità tecniche, o perlomeno vengono in secondo rango. Per prima cosa ci sono delle responsabilità di uomini, cioè è stata una questione di uomini. Dopo soli sei mesi, l'inchiesta preliminare negli Stati Uniti venne archiviata. Le due società si accordarono e furono entrambe risarcite. Non si arrivò ad un chiarimento delle colpe e delle responsabilità. Tanto più che le navi sono state pagate dalle assicurazioni. Le due navi sono state pagate dalle assicurazioni, il carico è stato pagato dalle assicurazioni. Ma allora di chi era la colpa? Perché le due tesi, italiana e svedese, erano diametralmente opposte? Perché l'Andrea Doria ha sostenuto che la Stockholm fosse alla sua destra, mentre quelli della Stockholm sostenevano che l'Andrea Doria fosse alla loro sinistra? Oggi, con l'ausilio dei computer, è tutto chiaro. La tesi svedese è inesatta per coprire un errore: l'impostazione della scala del radar. Le navi erano effettivamente ognuna alla destra dell'altra, come hanno sempre sostenuto gli uomini dell'Andrea Doria, ma il radar svedese era sfalsato rispetto alla reale distanza. Quando Carstens, credendosi a 6 miglia, ordinò al suo timoniere di accostare a destra, la nave era in realtà a 2 miglia dall'Andrea Doria. Quella che l'ufficiale svedese riteneva un'accostata sicura si trasformò in una tragica rotta di collisione. La vicenda dell'Andrea Doria è entrata prepotentemente nell'immaginario collettivo e poi lentamente anche questa avventura si è dissolta nella memoria. Ma per coloro che l'hanno vissuta in prima persona rimane una pietra miliare incancellabile. Sì, c'ho due figlie, una di 10 anni e una di 8 anni. Vogliono imparare, vogliono sapere, sono curiosi e allo stesso tempo sono orgogliosi, perché ci piace raccontare ai suoi amici, perché loro hanno qualche cosa che è differente, che è successo. Quando loro dicono la storia di suo padre, nessuno può dire quello. Non dico che dimentichiamo di quel che è successo, non si può dimenticare. Non si può dimenticare. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.